Cartellone di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Cartellone. Oggi andiamo a curiosare sulla programmazione di uno dei più importanti teatri italiani, sicuramente il più importante a Milano, il Piccolo Teatro di Milano. Buongiorno Sergio Escobar, direttore del Piccolo. Buongiorno, buongiorno. Allora, ho visto che avete un cartellone denso di avvenimenti. Iniziate addirittura con Dario Fo e poi un altro spettacolo con Dario Fo e Franca Rame. Sì, iniziamo con una prima rappresentazione di un viaggio che Dario Fo fa sulla figura di Sant'Ambrogio, che chiama Ambrogius e non Sant'Ambrogio. Quindi Dario Fo è legato al Piccolo Teatro dalla storia, da presenze recenti, ma anche da tutta la sua storia, e sarà presente anche indirettamente poi con un testo suo che vede il debutto in un testo mai mitico come Il mistero buffo di Paolo Rossi. Quindi è un inizio con Dario Fo e anche in chiusura di stagione indirettamente con Dario Fo. Quindi sul palcoscenico ci sarà Dario Fo con questo nuovo spettacolo, certo. E poi ci sarà Paolo Rossi che deve reinterpretare Mistero Buffo, che è un certo. Must. Allora, certo. Noi abbiamo preparato una piccola sorpresa qui a Cartellone per lei. Abbiamo rubato un pezzettino di questo Mistero Buffo di Dario Fo, recitato da Dario Fo nel 1977. Sentiamo. Ecco che torniamo, Bonifacio VIII si prepara per una funzione religiosa, va in processione, prima si mette la mitra, si mette guanti, si mette un sacco di un mantello enorme, pesantissimo, con borchio d'oro, d'argento, pietre preziose, e se ne va in processione. Mentre va con i chierici che gli sollevano questo mantello, ecco che si incontra con un'altra processione che è portata avanti da Gesù Cristo. Però Gesù Cristo va in montagna, lui va... Hanno un incontro e hanno un dialogo anche. Gesù Cristo parla con Bonifacio VIII. E a un certo punto nella discussione si fa un pochettino accesa e a Gesù Cristo girano i santissimi proprio e sferra un calcio nel coccige, qua si chiama così, coccige a Bonifacio VIII. Sì, lo so, adesso dopo la pedata di Gesù Cristo si chiama appunto osso sacro, lo sapete. Sergio Escobar, insomma, una grande sfida per Paolo Rossi, perché sappiamo che Dario Fo aveva una mimica su Mistero Buffo che era assolutamente esilerante. Beh, l'ultima delle cose che farà Paolo Rossi sarà quello di imitare Dario Fo, nel senso che Paolo ha una tale personalità ed è ritornato sulla strada dopo un periodo di astensione dal teatro, proprio da noi al Piccolo, quindi c'è un rapporto talmente profondo che nessuno gli chiederà ovviamente di rimpiazzare Dario Fo, ma di essere Paolo Rossi, così come Dario Fo gli ha chiesto di essere. Poi c'è Giorgio Gaber anche che aleggia sopra il Piccolo con due spettacoli, perché c'è Claudio Bisio, io quella volta li avevo 25 anni, giusto? E... Certo, beh, ogni anno noi lavoriamo con la Fondazione Giorgio Gaber per ricordarlo con queste Milano per Gaber, perché anche qui di nuovo non è un'ospitalità, è una sintonia profonda. Gaber iniziò il Piccolo Teatro, tra l'altro c'è un piccolo episodio, Paolo Grassi aveva il braccio ingessato, la prima volta che l'ha visto lui l'ha scambiato per un portabiti e ci ha attaccato la giacca, è un'autentica battuta, nel senso che è vera, e quindi questo è il rapporto che Gaber ha avuto col Piccolo, quindi assolutamente anche questo, né commemorativo né di ospitalità, ma di continuità di interpretazione del teatro canzone. Quindi dicevamo appunto Claudio Bisio con questo spettacolo, però ce n'è anche un altro che è un certo signor G con Neri Marcomè, e poi ancora un altro che è nella Sala Teatro Studio, Milano, sempre per Giorgio Gaber, Se potessi mangiare un'idea con Joelle Dix. Allora ascoltiamo un attimo cosa ci ha detto Joelle Dix riguardo a questo spettacolo. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. È un grande omaggio che io faccio a Giorgio Gaber, che io ho amato molto come prima di tutto da fan, da spettatore. L'ho seguito in tutto il suo percorso teatrale. Gaber era un cantante di grande successo in televisione negli anni 60, poi scelse il teatro per approfondire le sue qualità di osservatore degli uomini e delle donne, e parlava non solo d'amore ma anche di società, di filosofia, insomma è stato un grande pensatore. Questo spettacolo, se potessi mangiare un'idea, è nato quest'inverno da una lezione spettacolo fatta all'Università Statale di Milano davanti a quasi 3.000 studenti. Ci siamo resi conto di quanto ancora era forte Gaber e quanto andava anche fatto conoscere ai più giovani. Ecco Escobar, insomma abbiamo sentito Joel ed X, vi preparate a celebrare, come dice una persona che era di casa al piccolo, in modo molto adeguato mi sembra. Sì, più che celebrare, ripeto, andare avanti in una continuità di rapporti, ma forse se lei vuole possiamo parlare anche del resto della struttura della assolutamente perché ho visto che ci sono chiaramente i grandi classici di Poré, certo, no, ma forse la struttura, siccome non si possono elencare tutti i titoli, sarebbe noioso e stupido, credo che definire la struttura possa far capire l'idea di teatro che abbiamo. Ci sono 12 produzioni, ci sono 19 titoli di ospitalità italiana e, questo mi sta molto a cuore quello che sto per dire, altrettanti titoli, cioè 19 titoli in lingua originale, cioè di testi che arrivano da tutto il mondo e che vengono inseriti nella nostra stagione normalmente, non in ambiti speciali o specialistici di Fesia, ma normalmente proposti al pubblico. Questo dà l'idea del teatro che il piccolo è, cioè un teatro fortemente legato a Milano, come lei ricordava, ma teatro aperto e ponte verso tutto il mondo. Tra le produzioni, ovviamente, una inizia subito adesso, a ottobre, è il debutto di Roberto Saviano, direttamente suo come interprete sul palcoscenico, con uno spettacolo che è La bellezza e l'inferno. E poi ci sono le produzioni, ovviamente, di Luca Ronconi, una nuova edizione del Mercante di Venezia, la ripresa dei Sogni della notte di mezz'estate, la presenza di registi come Luis Pasquale con due titoli, uno Bernarda Alba ospitato in lingua originale catalana e l'altro Donna Rosita, che di fatto ridà il via all'attività produttiva del teatro di Via Rovello, la mitica sala di Via Rovello 2. Una cosa che caratterizza questa stagione è proprio questo, la riapertura dopo i restauri di questo teatro, e la riapertura sarà fatta con degli spettacoli internazionali. Ci sono, non so, dei sottotitoli come si fa all'opera, al Metropolitan? Sì, sono lo stesso numero di titoli che abbiamo in lingua italiana, in testi italiani, sono 19 spettacoli. Apriamo con Pene d'amore perdute di Lev Dodin a gennaio, ci sono sottotitoli, ma noi abbiamo esperienza sia per gli spettacoli che ospitiamo sia per quelli che portiamo in tournée. Dopo un po' la gente, se lo spettacolo è uno spettacolo teatrale, se è bello, per essere sintetici nel giudizio, la gente si dimentica i sottotitoli e legge il linguaggio del teatro. Questa è la più grande soddisfazione che a noi viene da questa scelta. Dicevo, ci sono testi di regia di Pasquale, di Dodin, di John Turturro, che porta Italian Folk Tales, che è la versione, la sua interpretazione del testo di Calvino, Le fiabe italiane. C'è un Macbeth di Donnelland, c'è il ritorno dell'Odin di Eugenio Barba con Andersen, insomma. Credo che questo interpreti l'anima di Milano, che vive nelle differenze e non le teme, e i milanesi, e non solo i milanesi, trovano nel nostro teatro la risposta a tante domande che si stanno ponendo di fronte al cambiamento del mondo, delle città, delle genti, delle lingue. A questo teniamo molto. Allora, proprio per questo ricordiamo che andrà in scena Il Mercante di Venezia, proprio per parlare di differenze, regia di Luca Ronconi. Noi abbiamo preparato un pezzettino dal film, ci perdoni Escobar, sentiamo un attimo Al Pacino, proprio quello che diceva sulle differenze, perché ogni tanto in quest'Italia è bene ricordarlo. Non ha occhi un ebreo? Non ha mani un ebreo? Organi? Consistenza? Sensi, affetti, passioni? Non si nutre dello stesso cibo? Non è ferito dalle stesse armi, non soffre delle stesse malattie, non è curato con gli stessi rimedi, scaldato, agghiacciato dallo stesso inverno, dalla stessa estate di un cristiano. E se ci pungete, non versiamo sangue. Se ci fate il solletico, non ridiamo. Se ci avvelenate, non moriamo. E se ci fate torto, Non ci vendichiamo? Se siamo a voi uguali in tutto il resto, perché non assomigliarvi anche in questo? Se un ebreo fa torto a un cristiano, a che si riduce la sua carità? Alla vendetta? Se fa torto a un ebreo, quale esempio elevato di sopportazione gli mostra un cristiano perfetto? Noi aspettiamo la regia di Luca Ronconi, ovviamente. Escobar, ci perdoni queste, no, diciamo, ringrazio, libertà, libertà radiofoniche. No, vabbè, ringrazio, perché in realtà, a parte che il film è molto bello, poi è giusto che sia aperto non solo al linguaggio teatrale. Ecco, quello che vi posso dire, proprio facendo riferimento al testo, al pezzo che avete trasmesso, molto bello, è che sarà più sul fatto che è un mercante che sul fatto che è ebreo Shylock, cioè in realtà il mercato invade le relazioni affettive e le relazioni complessive. Questa sarà la chiave della lettura molto sintetica, schematica, se volete, che Luca Ronconi ha anticipato di voler realizzare. Poi si sa che con lui, lavorando in realtà poi sul testo, le idee nascono proprio dal lavoro interno. Allora, per tutti i milanesi, ma non solo, anche per chi si reca a Milano, è importante fare tappa al Piccolo. Abbiamo sentito e ringraziamo Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro di Milano. Abbiamo sentito una stagione non piena, pienissima, e noi ci aspettiamo di vederne tanti di questi spettacoli. Arrivederci, Escobar. Arrivederci, grazie. Cartellone. C'era una volta un uomo veramente saggio. Così saggio che si diceva che avesse sempre la storia giusta da raccontare al momento giusto. E così un suo allievo, un suo discepolo, una volta gli chiese: «Maestro, qual è il vostro segreto?» E lui disse: «Questo mi fa venire in mente una storia. C'era una volta un arciere bravissimo, ma lui si era messo in testa di essere il miglior arciere del mondo. E così non si accontentò di essere il più bravo del suo villaggio, ma andò in giro, di villaggio in villaggio, a studiare con i migliori maestri d'arco che poteva incontrare. E compì un lungo viaggio che durò molti giorni e molti mesi. E quando tornò al suo villaggio, aveva veramente appreso tutto quello che c'era da imparare per tirare con l'arco. Ma quando tornò, seppe che nel villaggio accanto c'era qualcuno migliore di lui. Qualcuno che faceva centro ovunque fosse il bersaglio, sulle porte delle case, sugli alberi, persino sul muro della chiesa. E così prese il suo cavallo e andò a cercare quest'altro arciere per capire il suo segreto. E quando arrivò nel villaggio accanto, iniziò a chiedere a tutti dove fosse questo che era l'arciere migliore del mondo, e vide davvero bersagli centrati sulle porte delle case, sugli alberi, per terra, perfino nei cespugli. E allora lo condussero al palazzo del re. E lui insistette e disse al re: «Maestà, voglio conoscere qual è il migliore arciere di questo villaggio». E il re gli disse: «Ma quale dici? Ma quello che fa centro ovunque ci siano bersagli». E il re gli disse: «Guarda, è meglio che lasci perdere e che torni a casa tua». Ma l'arciere si impuntò e disse: «No, perché io voglio essere il migliore arciere del mondo e qui c'è un maestro da cui non ho ancora imparato». E allora il re disse: «Va bene, ti chiamo l'uomo che c'entra tutti i bersagli del villaggio». Ed arrivò il buffone di corte. Il buffone fece 4 salti, 3 capriole e poi si inchinò e disse: «Maestà, in che cosa posso servirvi?». E il re gli disse: «Qui c'è un arciere che vuole conoscere il tuo segreto, vuole sapere come fai a fare centro in tutti i bersagli». Il buffone fece altri 3 salti, 3-4 capriole e disse: «È molto semplice. Io prima tiro la freccia. Dove cade, cade, e intorno ci disegno il bersaglio». Il maestro guardò il discepolo e il discepolo lo fissava con gli occhi sgranati. E il maestro gli disse: «Per me è esattamente la stessa cosa. Io me ne vado in giro per il mondo col mio sacco pieno di storie e poi lancio una storia. E il bersaglio si disegna da solo». Abbiamo sentito Angela Saieva e Paola Balbi, che ci sono venute qui a trovare a Cartellone, una splendida fiaba, una storia da raccontare, perché proprio di storytelling questo fine settimana si parla a Roma. Dal 18 al 20 settembre, quindi iniziato ieri, ci sarà questa rassegna internazionale, un festival internazionale di cantastorie, se così vogliamo dire. È una raccontami una storia, proprio una prima edizione italiana che è sparsa per tutta la città, dalla Basilica di Santa Maria del Popolo alla Basilica di San Giovanni e poi al Parco dell'Appia Antica. Allora, Angela Saieva, come vi è venuto in mente di fare un festival così un po' surreale? Noi abbiamo cominciato 5 anni fa come tutte le cose, forse un po' per caso, per un incontro tra me e Paolo inaspettato quando lavoravamo scritturate in un teatro di Roma, proprio al Teatro dei Documenti, che è stato uno dei luoghi del proprio ieri dell'apertura del Festival di Storytelling. E abbiamo cominciato a raccontare storie a braccio, volendo proprio far rivivere la tradizione dei cantastorie. E poi questo ci ha portato più lontano, ci ha portato in Inghilterra, poi ci ha portato in Canada e siamo venuti a contatto con la realtà internazionale. E molte storie sono le stesse, molte altre cambiano. E volevamo che anche a Roma arrivassero storie dai vari paesi del mondo e che gli storytellers e i cantastorie portassero le loro tradizioni e le storie dei loro paesi. Ed ecco perché è nata questa idea del festival. Paola, un festival che è in italiano e anche in inglese. Sì, il festival è in doppia lingua proprio per permettere la partecipazione di cantastorie da tutto il mondo. Abbiamo persone che vengono dal nord Europa, dalla Norvegia, dalla Svezia, dall'Inghilterra, dal Galles e persino dal Canada. E il festival avviene in italiano per gli artisti che parlano italiano e in inglese con traduzione o con riassunto delle storie per gli artisti che parlano lingue straniere. E il bello è anche sentire proprio il suono delle altre lingue e gli andamenti antichi orali che ognuno porta insieme con la sua cultura, di rime piuttosto che non di ritmi, di poetici, ballati. Ci sono anche nell'ambito dello storytelling ci sono anche le vecchie ballate, per esempio, le canzoni. Tutto ciò che fa parte della cultura orale e che non è però il teatro di narrazione come solitamente lo intendiamo in Italia. Un festival che ha 9 storytellers stranieri e 10 italiani, quindi insomma 19 persone che si avvicendano in queste serate, anzi in queste mattinate, perché si inizia alle 11 di mattina. Ma Angela, qual è la caratteristica? Siete accompagnati da musica? Quanto durano le storie? Perché noi abbiamo sentito un flash, no, di quello che è una storia. Cioè, quanto poi i vecchi cantastori sapevano che era all'incirca l'attenzione media dell'ascoltatore quando poi andavano a narrare queste storie? Questo sostanzialmente dipende tanto dalle storie. Cioè, è vero che ogni storia ha il suo stile per essere raccontato, è vero che ogni storia ha bisogno o non bisogno di musica. Per cui abbiamo spettacoli, abbiamo veramente tentato di venire incontro a tutte le esigenze e tutti i gusti. Quindi abbiamo messo insieme storytellers di vari paesi che raccontano magari per una ventina di minuti ciascuno, come dato la possibilità invece di concerti, di storie, di spettacoli più ampi. E sì, la musica ovviamente è un collante straordinario ed è anche una lingua universale, per cui sì, ci sarà anche musica tra le storie e nelle storie. Io vedo anche qui, Paola, che oggi alle 17 nel Parco dell'Appia Antica, quindi abbastanza un'atmosfera suggestiva, magari davanti al vecchio acquedotto, non so, c'è un evento itinerante, storie sull'antica Roma, con la vostra compagnia, la compagnia Raccontami una storia. Sì. Allora, che state? Siete tutte quante vestite, non so, questo da schiave romane, centurioni oppure... No, perché lo storytelling si distingue proprio per questo dal teatro, cioè basa tutto sull'immaginazione e sull'incanto delle parole, ovvero non ci sono costumi teatrali, effetti scenici, ma c'è un'immagine che vola da chi racconta a chi ascolta. Aspettiamo alle 17 il pubblico alla chiesa del Domine Quo Vadis, all'inizio del Parco dell'Appia Antica, e li porteremo attraverso un percorso per il sito archeologico dell'Appia Antica, raccontando le storie di quei luoghi nel punto in cui avvennero. Intanto diamo il sito www.raccontaminastoria.com. Invece un altro assaggio piccolo di una storia. Un allievo va da un maestro e gli dice: maestro, quali sono gli ingredienti per rendere una storia veramente storia? Il maestro lo guarda e dice: è semplice, sono 4. E quali sono? Ci vuole un pizzico di religione, un pizzico di regalità, un pizzico di sesso, che non guasta mai, e un pizzico di mistero. Ma maestro, dice l'allievo, ma è possibile raccontare una storia con tutti questi 4 ingredienti insieme? Certo, ma potrebbe fare un esempio. Oddio, esclamò la principessa, sono incinta e non so chi è il padre. Quindi c'erano tutti. Un vecchio mistero. quello della principessa. Allora, ricordiamo intanto che si inizia tra pochissimo alle ore 11 e poi alle ore 16 nel Parco della Pia Antica con il laboratorio di storytelling di Graham Langley. Poi lo spettacolo di David Ambrose, lo spettacolo di Marco Sgarbi, insomma lo spettacolo di Mats Rehman addirittura dalla Svezia. Domani si rinizia alle 11 e alle 16 alla Basilica di San Giovanni a Porta Latina con laboratorio di storytelling, questa volta di David Ambrose del Galles. Poi, come abbiamo detto, c'è lo spettacolo di Christine Meyer del Canada e di Stella Cassimati della Grecia. Insomma, si va avanti poi anche lì fino alla sera con lo spettacolo poi di Graham Langley e poi di Sista Bramina, Diana Bertoldi, Francesco Burroni. Ah, finalmente ci sono anche degli storytellers italiani, ma noi vogliamo riandare lì sulla Pia Antica. Scusaci Paola, ma noi vogliamo capire, ma queste storie sull'antica Roma? Allora, prima di salutarci, un pezzettino. Allora, vi aspettiamo alle 17 alla chiesa del Domine Quo Vadis. Pietro uscì dalle porte della città. Era stata una brutta giornata. Una di quelle giornate di... come diremmo noi. Ma alla fine ce l'aveva fatta. Era riuscito a scappare. E mentre i suoi sandali percorrevano l'Appia Antica, pensava, ce l'ho fatta. Ancora pochi passi e verrà il buio. Ancora pochi passi e nessuno per strada mi riconoscerà. Si strinse il mantello intorno alle spalle, per non farsi vedere. La odiava quella città. Era una città di... E lui lo sapeva, non si era mai fidato dei romani. Ma poi Paolo l'aveva convinto ad arrivare fino là, gli aveva detto che se veramente volevi diffondere una notizia, quello era il posto in cui essere, la grande capitale. E guarda com'era finita, in prigione tutti e due, e c'era mancato poco. E mentre faceva questi pensieri e pensava ormai di averla scampata, vide improvvisamente un uomo venire dall'opposta direzione a preoccupante distanza. Ma com'è possibile? Lui scrutava la strada di lontano, eppure quell'uomo sembrava essersi materializzato a pochi metri da lui. Alzò la testa e sbiancò. Allora, io ringrazio Angela Saieva e Paola Balbi di Storytelling. Vi ricordo allora l'appuntamento per oggi e per domani con questo Festival Internazionale di Storytelling. Grazie e in bocca al lupo. Crepi. Cartellone. E torniamo a Londra, o meglio, torniamo a Londra, ma poi torneremo anche in Italia. Un viaggio quello lì con Michela Daghini, la nostra Michela Daghini, che anche quest'oggi è qui a Cartellone. Buongiorno Michela. Buongiorno Elisabetta. Allora, so che da Londra sta per arrivare in Italia un musical molto molto importante che si chiama Avenue Q. Ci spieghi che cos'è? È un musical decisamente diverso, considerato il più innovativo degli ultimi anni, perché i protagonisti si servono di pupazzi, sono dei pupazzi bellissimi, animati, e si servono di questi pupazzi per raccontare storie quotidiane di disoccupazione, degrado, problematiche della vita moderna. Lo show infatti è liberamente ispirato a Sesame Street, la serie televisiva americana che qualcuno ricorderà, fatta con i pupazzi, e i problemi sono quelli della società di oggi, e ci sono canzoni molto divertenti che aiutano a sdrammatizzare un po', suggerendo che ogni problema visto con la giusta prospettiva in fondo non è così grave come sembra quando ci sommerge. I problemi sono appunto quelli di oggi, e l'originalità di Avenue Q sta proprio nel fatto che i protagonisti sono questi adorabili pupazzi, ognuno dei quali è mosso da un alter ego, è un alter ego umano che coesiste sul palco, canta per lui naturalmente, parla, gli presta la voce e partecipa però anche empaticamente agli eventi, quindi è come se fossero in due sul palco per ogni personaggio, e ci riportano un po' in questa dimensione dove il pupazzo e l'attore sono fusi in un unico personaggio e non si capisce più dove inizia uno e dove finisce l'altro, è una sorta di mondo cartoon. Sì, poi soprattutto in Italia lo ricordiamo, la traduzione e la regia di Stefano Genovese, che lui descrive così la sua scoperta di Avenue Q. Dice: qualche anno fa mi sono seduto in poltrona e con aria rassegnata, e poi dopo due ore ne sono emerso più ottimista che dopo la mia seduta settimanale di analisi. Avevo visto Avenue Q, mi ero visto in Avenue Q. Ricordiamo anche che i pupazzi sono disegnati in Italia da Arturo Braghetti e che la direzione musicale è di Cinzia Pennesi. Ma Avenue Q ha una storia invece in Inghilterra, Michela. Sì, la storia è quella di Princeton, che è un trentenne appena laureato che arriva in questo condominio di Avenue Q, una strada della periferia di New York, arriva senza un dollaro in tasca ma con grandi sogni e poi presto scoprirà questo simpatico vicinato che non se la passa molto meglio. Sono trentenni disoccupati, non sanno che fare della loro esistenza, non hanno una casa, hanno delusioni d'amore come tutti, sono in perenne difficoltà, sono alla continua ricerca di uno scopo nella vita e coltivano ciascuno un sogno. C'è chi cerca un lavoro, c'è chi cerca una casa, un posto dove vivere, c'è chi cerca il proprio riscatto e soprattutto naturalmente tutti cercano l'amore. Così in questa scalcinata strada newyorkese i pupazzi affrontano la vita condividendo esperienze e difficoltà, si raccontano un po' le vicende, i fatti quotidiani, dialogano, si confrontano e portano appunto alla ribalta alcuni temi critici della società di oggi come la disoccupazione, l'omosessualità, anche qui il razzismo, la pornografia su internet, eccetera, i temi insomma del nostro quotidiano. Sono tante storie divertenti che si intrecciano nel migliore dei modi, con tutto il sarcasmo e l'ironia che stravolge le regole del politically correct. Infatti è molto NPC, molto scorretto politicamente questo musical, perché loro dicono esattamente tutto ciò che passa loro per la testa e l'uso da parte dei protagonisti di un linguaggio appunto politicamente scorretto contribuisce anche a creare un effetto molto ironico e raccontato dai pupazzi è comunque divertente. E allora sentiamo un brano di quelli che ci hai mandato proprio di questo Avenue Q in italiano. Il sole splende, che bel giorno è, un giro al parco in programma c'è, ma le bollette sono lì per me. Come farò? Lavori duro ma già lo sai, ne sei sicuro non ce la fai, e quando timbre le sei già sai dove andrai. A casa deve in più, io vivo in Via della Sfiga, è detta Avenue Q in italiano, Michela. Allora, non so perché l'abbiano tradotto così, perché in realtà no, in inglese non c'è, però si vede che hanno voluto un po' sottolineare questo aspetto della loro, diciamo, vita un po' travagliata. Ricordiamo le date, il 16 e il 18 ottobre a Bologna al Teatro delle Celebrazioni, poi via via il 20 ottobre a Roma al Teatro Olimpico, il 10 a Milano al Teatro Nuovo, il 24 a Genova al Teatro Politeama, insomma fino ad arrivare a marzo a Firenze, a dicembre poi a Torino. Basta poi andare sul sito di Avenue Q Italia e oltretutto c'è anche su Facebook Avenue Q, proprio per saperne di più, quindi una grandissima produzione anche in Italia, Michela. Ma io invece so che a Londra c'è un po' un'attesa, perché potrebbe esserci il ritorno questa volta, Michela, non di un musical, ma di una rock opera. '65, quando gli Who, per la firma di Pete Townshend, firmavano appunto My Generation. Perché? Perché loro erano giovani e volevano contrapporsi invece al vecchiume, insomma agli anziani. E adesso invece Pete Townshend, chitarrista nonché scrittore, autore delle grandissime musiche degli Who, si rivolge alla terza età, perché lui ci è arrivato e quindi sta preparando un nuovo musical, Michela. Sì, lui sta scrivendo questa nuova rock opera intitolata Floss, che è il nome della donna poi che è al centro della storia, ed è un musical che dovrebbe debuttare a New York nel 2011, come annunciato nel sito della band, e quindi dopo le opere rock Tommy e Quadrofenia che conosciamo famosissime, al lavoro su questo suo nuovo musical. Lui coltiva da sempre la passione per la scrittura, e adesso che ha 64 anni, come dicevi, lui ci è arrivato alla terza età, ha voluto costruire la trama di questo nuovo progetto attorno al tempo, proprio al passare del tempo, dunque all'invecchiamento, al tema della maturità, diciamo, trattando con la rabbia del rock. Dice: voglio trattare questo tema con la rabbia del rock, dunque con grande grinta. Il protagonista maschile è Walter, che è un ex musicista rock che ha abbandonato le scene e si occupa della famiglia, e la famiglia ruota attorno alla figura della moglie Floss, appunto, che dà il titolo all'opera. E quando la vita di coppia comincia a vacillare o comunque a soffrire un po' di stanchezza, ad andare male, Walter fa uno sfortunato tentativo di tornare al rock, e questa è un po' la partenza dell'opera. Lui alla stampa, Townshend, ha detto che il musical rappresenta una nuova sfida per lui, perché la vuole fare in modo molto particolare, dovrebbe essere una cosa molto diversa, molto originale. Dice che le canzoni che sta componendo per la colonna sonora saranno poco convenzionali per questo genere teatrale, in quanto prevedono anche tutta una serie di effetti speciali, montaggi sonori molto inusuali. Lo spettacolo sarà rappresentato all'aperto e nelle arene, sarà proprio una cosa, mi par di capire, quasi epica, e vedremo come sarà rappresentato, siamo evidentemente molto curiosi. Beh, tra l'altro i brani più convenzionali poi di questo musical faranno parte del nuovo album degli Who, di cui è prevista la pubblicazione per il prossimo anno. Ci sono parecchie cose che bollono in pentola, ricordiamo allora Avenue Q che arriva in Italia. Speriamo, Michela, che questa versione regga, perché i musical tradotti perdono sempre un po'. È vero, perché rischiano comunque di perdere qualcosa nella traduzione, certo è diverso, però chi lo sa. Grease era andato benissimo, quello con Lorella Cuccarini, ricordo che è stato in scena moltissimo, ha fatto davvero un record al teatro a San Babila a Milano, è stato davvero un record, quindi era molto riuscito, quindi chissà se la produzione è grossa, perché no, vediamo. Vediamo, e poi in attesa nel 2011, però noi già cerchiamo, essendo dei fan di questo bellissimo gruppo rock, vediamo un po' cosa succederà con Floss di Pete Townshend. Ricordiamo allora che Avenue Q è anche in scena a Londra, sempre per gli italiani che vogliono andare un weekend a Londra, giusto Michela? È in scena anche qui a Londra, ci sono code tutti i giorni, ma comunque i biglietti si trovano, ci sono le persone in fila che cantano a memoria le canzoncine perché l'hanno già visto 3 o 4 volte, e comunque il Noel Coward Theatre di Londra, che è naturalmente nel West End ed è lì proprio in centrissimo, attaccato all'Leicester Square. Per chi invece è in Italia, ricordiamo che dal 16 ottobre da Bologna fino al marzo a Firenze sarà possibile vedere Avenue Q, come abbiamo sentito, La Via della Sfiga. Nel mondo è un successo mostruoso. Hanno scelto questo titolo che a Michela non piace molto, nemmeno a noi, però insomma questo è stato scelto nella versione italiana con i pupazzi disegnati da Arturo Braghetti. Grazie Michela! Grazie a voi, grazie a te Elisabetta Fiorito e a tutti gli ascoltatori di Cartellone. Cartellone. E questa era Nena che cantava 99 Luftballons, che praticamente sono 99 palloncini che si liberano nell'aria. E perché noi abbiamo voluto iniziare così qui a Cartellone? Perché ieri a Ferrara si è aperto un festival che con i palloncini d'aria, ma anche le grandi mongolfiere, ha molto a che fare. Il Ferrara Balloons Festival del 2009, un appuntamento a Parco Urbano Bassani che andrà avanti fino al 27 settembre ed è alla sua quinta edizione. 10 giorni dedicata alle mongolfiere, ma non solo. Massimo Magnani, organizzatore ed ex maratoneta del festival. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Ecco, uno dei grandi protagonisti del festival sarà proprio lo sport, visto perché un maratoneta come fa a volare? Che cosa si mette ai piedi? Beh, abituati a fare tanta strada, appunto sulle strade dei campi, ogni tanto sollevarsi in volo non fa male. Ferrara Balloon Festival, che appunto è partito ieri, è un'occasione per mettere insieme e coniugare diverse passioni, quella per lo sport sicuramente, così come quella per le mongolfiere, che sport sono comunque, le mongolfiere sono anche strumenti per competere, qui qualche competizione tra di loro ci sarà, in particolare fra le mongolfiere speciali e le mongolfiere diciamo più tradizionali. Ieri è partita questa edizione, che è la quinta e che ci auguriamo possa così attirare e attrarre sempre di più spettatori e visitatori, che già lo scorso anno sono stati in numero di diverse centinaia di migliaia. E proprio le mongolfiere sono il punto di forza di questo Ferrara Balloons Festival, 40 equipaggi italiani e stranieri, giusto Massimo? Assolutamente sì, sono una quarantina gli equipaggi che volano a Ferrara, di cui 13 forme speciali. Le forme speciali sono, diciamo, forme di mongolfiere particolari che riportano animali, frutti e quant'altro. Quest'anno abbiamo un dragone di circa 60 metri, per esempio, e sono veramente uno strumento che fanno stare con il naso in su le centinaia di migliaia di persone che ci vengono a trovare al festival. Che cosa si prova a stare lassù? Beh, è un altro modo di vedere il mondo, un modo di vederlo da un silenzio particolare, dallo sfiorare le case, perché le mongolfiere volano alte ma poi possono anche abbassarsi a certe quote, e poterlo fare in assoluta sicurezza davvero apre il cuore e l'immaginazione e la fantasia della gente. Allora ricordiamo, Ferrara Balloons Festival aperto ieri ma andrà avanti fino al 27 settembre al Parco Urbano Bassani, un modo per guardare queste magnifiche mongolfiere e per fare tanto, tanto sport. Mettetevi la tuta per fare sport. Sulla pelle, su noi cadono perle stasera, le insegne dipingono a mano dei vetri rigati al vapore, nella pioggia che c'è, i cani non trovano padroni e suona l'orchestra a gettoni e i cinesi non chiudono mai. E con questa canzone di Vinicio Capossela, Nella pioggia, noi ci spostiamo a filosofar, sì, perché vogliamo filosofeggiare al Festival della Filosofia che si è aperto ieri a Modena, Carpi e Sassuolo. Buongiorno, buongiorno Michelina Borsari, direttore scientifico del Festival. Buongiorno. Allora, abbiamo sentito Vinicio Capossela, quindi vuol dire che non è un festival dove si parla solo, ma si ascolta anche della buona musica. Si ascolta, si guarda, si mangia, si danza. Abbiamo cercato di togliere alla filosofia il carattere severo e di restituirle quelle della meraviglia, del paradosso e dell'ironia. Ecco, lei ha parlato, si parla soprattutto di filosofia contemporanea. Che cosa vuol dire? Non si parla di Aristotele e Platone? È difficile che un filosofo, per quanto contemporaneo, non alleghi, ecco, i grandi del passato che hanno pensato per tutti e per tutti i tempi, ma certamente noi chiediamo di essere all'altezza delle sfide del tempo presente, quindi comunità oggi è qualcosa che fa problema e comunità chiediamo ai filosofi di pensare. Ci sono sezioni come quella che abbiamo introdotto quest'anno sulla lezione dei classici che leggono per il nostro pubblico anche gli autori, i libri fondamentali che hanno costituito delle svolte nel pensiero della comunità, ma naturalmente abbiamo anche colto l'occasione per dare un'occhiata a quella che è la nostra comunità più ampia, la comunità italiana. E ci è parso bello di segnalare che è una comunità di piccole città di provincia, ecco le tante piccole città di Ascanio Celestini che questa sera sarà in Piazza Grande a Modena, la piccola città appunto di cui parlavamo con Capossela, le tante mostre, certo, che si chiamano Ethos degli Italiani, sono tre collegate che ripercorrono, okay, le storie di questa comunità fino dagli anni 20 fino alle Global City contemporanee nelle immagini di Olivo Barbieri, ma anche una comunità molto particolare. Ma una cosa che a noi ci ha incuriosito, perché sa, noi a Cartellone siamo un po' pazzerielli, e ci piacciono le cose un po' particolari, è il fatto che voi passate anche a parlare di cucina filosofica del 2009, passatelli in brodo, trippa la modenese, poi nella comunità politica, poi c'è la corporazione di salsicciai e lardaiuoli, beh insomma voglio dire a Carpi si cucina bene, l'università dei macellai, insomma la corporazione anche dei pescatori, insomma vedo friggitori, pastai, ecco la filosofia, quindi il filosofo non è colui che sta lì, medita, assorto, no, mangia, è una buona, forchetta. È una buona forchetta, sì, diciamo, intanto siamo emiliani, e questo non c'è dubbio e si deve vedere, ma è anche che appunto la filosofia non è per forza l'ascesi, la filosofia è anche apprendere a stare al mondo e a godere di tutto quello che dà. E alla convivialità, al convito, da 9 anni il Festival Filosofia dedica con Tullio Gregori una particolarissima attenzione, che è anche un'attenzione spiritosa, ironica, ma quest'anno ha voluto celebrare soprattutto i grandi artefici della cucina, appunto i salsicciai, i lardaiuoli, i verdurieri e perché no, in modo un po' ironico appunto anche i politici che qui sono celebrati con dei menù a base di ocche, di salame di cioccolata, ecco che appunto denotano un pochettino questo gusto un po' dell'ironia, dello spiritoso che rende leggero un festival di filosofia che altrimenti sarebbe nient'altro che un convegno accademico. Ma noi non vogliamo che lo sia, ringraziamo Michelina Borsari, direttore scientifico del Festival di Filosofia, perché l'Emilia si trasforma nell'antica Grecia in tutti i sensi, come abbiamo sentito, sia goliardico sia filosofico. Ricordiamo che il Festival di Filosofia va avanti fino a domani, si parte addirittura dalle 7:30 del mattino e poi invece ci sono moltissimi appuntamenti a Modena, a Carpi e Sassuolo. Per quanto riguarda gli appuntamenti serali, segnaliamo che nella maggior parte dei casi iniziano alle 20:30 o alle 21. Questa sera per esempio a Sassuolo ci sarà Monio Vadia, poi a Carpi Roberto Escobar e invece a Modena Tullio Gregori e Armando Torno. Insomma, tantissimi gli appuntamenti, un modo per vivere l'Emilia in modo particolare, Festival di Filosofia fino a domani, domenica. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Una buona giornata a tutti voi.